bivio. Quel tremendo bivio che nella vita indiscutibilmente ti porta a cambiare gli eventi. Sarò un dottore? Sarò un artista? O un avvocato? Avrò una famiglia? O sarò un drogato? È questa la domanda che il ragazzo non si pone quando ha in mano la sua prima siringa. Quel lago dentro è come una frenata in curva su una lastra di ghiaccio. Ma su quella macchina il ragazzo non si accorge che non è solo. C'è tutta la sua famiglia che muore con lui. È questa la considerazione che deve fare il ragazzo quando ha in mano quella sua prima siringa. Il bivio. Quanto è piccolo il punto di partenza, quasi impercettibile. Il buco di un ago. Ma che devia inesorabilmente verso un destino intriso di morte. Quella siringa, nell'essere lanciata, può impiantarsi sul braccio o per terra. Questo fa la differenza del bivio. Lì, il ragazzo decide di essere vita o di essere morte. Ho in mano una bustina. Ho in mano anche un cucchiaino. Ho un limone e un accendino. Oh, che bello gustarmi una tazza di tè a luci di candela.